Effetto Mondo. But it's really sad in a lot of respects and embarrassing because the president could right now be writing the last chapter of this administration with a victory lap with regards to the vaccine. After all, he pushed aggressively to get the vaccine developed and distributed. That's happening on a quick time frame. He could be going out championing this extraordinary success, and instead... Eccoci qua, anche, ciao Giulia, anche questa puntata, questa settimana di Effetto Giorno inizia con il nostro consueto, quasi un piccolo corso di inglese in pillole che ci fa Giulia. Questo era Mitt Romney, senatore dello Utah, lo ricordiamo tutti perché è stato l'unico senatore repubblicano a votare per l'impeachment, è stato sempre con molta razionalità critico di Trump quando c'era da esserlo e come in questo caso invece dice è pazzesco che Trump passi queste ultime settimane, perché l'ultima dichiarazione di Trump è che potrebbe addirittura usare la legge marziale testuale per prima di quel 6 gennaio famoso in cui il congresso deve ratificare la vittoria di Joe Biden, e Mitt Romney dice è assurdo, è pazzesco ed è incomprensibile, perché se lui invece passasse queste ultime settimane giustamente a giudicarsi il grande successo di questi vaccini approvati, inventati diciamo, perché un vaccino non si trova ma si inventa, si mette a punto e distribuiti con questi record, quello sarebbe una cosa che resterebbe nella storia della presidenza Trump. E invece purtroppo queste ultime settimane, come dicevamo, verranno ricordate per altro. I titoli dei quotidiani, oltre a occuparsi di questo, soprattutto in chiave editoriale, lo fa il Washington Post con un editoriale intitolato The Forging of a Lie, cioè come si costruisce una bugia, questa idea che Trump continua a dire che le elezioni sono state truccate. In realtà il tema, come abbiamo sentito anche nell'aggiornamento sulle borse, è questo pacchetto di aiuti da 900 miliardi di dollari che è passato. Vorrà dire un check diretto, un assegno diretto proprio che arriva nella posta per la maggior parte degli americani da circa $600 tenete conto che noi ne abbiamo varati tanti di questi decreti ristori. Gli Stati Uniti era da aprile che non arrivava un decreto ristori ne vero. Ne hanno fatto uno adesso grosso. L'ultimo era da 2,3 trilioni, quindi 2.300 miliardi di dollari in aprile, ed era stato il più grande mai varato nella storia degli Stati Uniti di federal money, cioè di soldi dello Stato, cioè dello Stato centrale che arrivano. Questo vale circa la metà, ma è comunque, secondo molti, lo sappiamo, ha avuto un iter molto travagliato, è strettamente legato all'altra manovra su cui si sta discutendo negli Stati Uniti proprio oggi, da 1,4 trilioni, che è quella, una specie di equivalente alla nostra finanziaria. Se quel pacchetto non viene varato, si va di nuovo verso il cosiddetto shutdown, perché il governo degli Stati Uniti, se a un certo punto non ha i fondi, non ha le coperture, non succede come in Italia o in altri paesi che si va avanti comunque a pagare gli stipendi statali, a far funzionare la macchina dello Stato, si chiude. Cioè chiudono gli uffici postali, chiude tutto quello dove non arrivano i fondi. Questo è un incubo ancora maggiore che non questo pacchetto di aiuti che finalmente è stato varato. Giulia, che altri titoli abbiamo in primo piano? Ma se vuoi c'è questa questione dei rapporti, sempre in quest'ultimo miglio della presidenza Trump, con la Russia e con la Cina. Per quanto riguarda la Cina, ci sono i giornali cinesi molto molto critici, a partire dal Shanghai Times, perché sapete Trump ha stilato una nuova lista di 59 aziende, in questa lista nera di aziende cinesi, e soprattutto ha attribuito alla Cina la responsabilità degli ultimi attacchi gravissimi di hacker a grandi aziende americane. E mentre Mike Pompeo, segretario di Stato, ministro degli esteri, equivalente di ministro degli esteri, aveva dichiarato poche ore fa, adesso sentiremo la sua voce in un'intervista televisiva, che invece la responsabilità è dei russi. Ma cioè, Trump non ne vuole sentire di mettere in qualche modo in discussione quella che forse a questo punto fu un'alleanza con Putin, e invece vuole dare la colpa ai cinesi anche in assenza di prove. Sentiamo Mike Pompeo. This was a very significant effort, and I think it's the case that now we can say pretty clearly that it was the Russians that engaged in this activity. Dice Mike Pompeo, dice abbiamo le prove che è stata la Russia, poi invece secondo Trump è stata la Cina. E su questo tema dei rapporti con la Cina torna anche Financial Times, abbiamo visto settimana scorsa si dava conto di queste trattative già in corso tra Bruxelles e la Cina. Financial Times avverte, dice non che i negoziatori di Bruxelles non si facciano prendere la mano, trattiamo la Cina con le cautele che sono dovute e che Trump ha mostrato a più riprese, con questo gigante dell'economia mondiale che sta effettivamente che viola da sempre molte regole dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Però è interessante su Financial Times intanto la foto di Fiumicino, perché è unanime l'ammirazione per come comunque l'Italia, quando qualcuno arriva negli aeroporti per esempio dal Regno Unito, vengono fatti test rapidi, perché la situazione nel Regno Unito è caotica, e ve lo confermo anche da informazioni diciamo familiari, perché mia sorella, suo marito e i suoi tre figli vivono lì da molti anni. Ma l'altra cosa interessante, ne parlavamo prima di andare in onda, c'è questo piano per accelerare l'iter di approvazione di nuovi farmaci, non soltanto vaccini, che ha delineato ieri il ministro della salute Matt Hancock per quanto riguarda il Regno Unito. È interessante perché appunto adesso noi giustamente parliamo di vaccini, quello di Moderna che negli Stati Uniti, ne parla Wall Street Journal in prima pagina, è già in fase di distribuzione, ma ci sono, si spera anche ci saranno presto delle cure. In questo caso il Regno Unito vuole cercare, visto che perderà moltissime aziende, le ha già perse per via della Brexit, di attirare i colossi farmaceutici garantendo appunto del fast track, delle corsie preferenziali per l'approvazione di nuovi farmaci. Questo è interessante anche perché, lo ricorderete, Matt Hancock il giorno dopo l'approvazione del vaccino di Pfizer va in Parlamento, dice vedete quanto bene ci ha fatto la Brexit, l'abbiamo approvato in fretta e furia, non avremmo potuto altrimenti. Ma la Pfizer solo 2 anni fa aveva denunciato che nel Regno Unito i farmaci venivano sì approvati, ma poi non venivano portati ai pazienti, con una lentezza che superava di molto quella di altri paesi europei e degli Stati Uniti. Quindi, di nuovo, sulla Brexit, grande confusione sotto il cielo che si aggiunge naturalmente al virus. Portaci un po' sulla stampa britannica, perché effettivamente sulla Gran Bretagna vedo che i complottisti e la Brexit sono scatenati, perché dicono sarà un caso che la nuova variante del coronavirus si scatena proprio adesso che gli inglesi hanno detto addio all'Europa? No, beh, sicuramente era da qualche mese probabilmente che gli scienziati notavano queste mutazioni, ma come spiegava anche lo scienziato prima, ospite tuo, sono normali nei coronavirus, che sono dei virus che hanno queste piccole mutazioni, ma la proteina spike sulla quale agisce, lo spiegano bene i giornali britannici, quelli seri, sulla quale agisce il vaccino, è una proteina complessissima. Se anche varia un piccolo mattoncino, immaginatevi un grande, come se variasse il mattoncino di punta di una grande costruzione Lego che non crolla certo per quello. Quindi da una parte questo, e dall'altra in realtà se il tema di forse Johnson l'ha tirato fuori in questi giorni di ultime negoziazioni per la Brexit, beh qui forse qualche dubbio è legittimo farselo venire, perché in effetti il problema della Brexit a questo punto è gigantesco, perché con la ma però è come se fosse un boomerang quello che ha detto, perché la chiudere le frontiere dall'Europa in un momento in cui appunto comunque c'è la Brexit, rischiano, ne parla il Times, ne parla il Guardian, a questo punto rischiano di mancare veramente generi di prima necessità nel Regno Unito, che sappiamo è un paese che negli anni ha lasciato molta parte della sua economia, trasformandola manifatturiera, trasformandola in economia dei servizi, e adesso i nodi vengono al pettine. Quindi non lo so, i complottisti, c'è sempre una punta di verità credo in tutto, però che sia un complotto no, sicuramente Boris Johnson in questo momento ha veramente una vita complicata davanti a sé per i prossimi 3-4 mesi. Cina, mi segnali che ne parlavi poco fa, le vaccinazioni diciamo in grande, su vasta scala stanno partendo? Sì, sì, ormai lì si parla di appunto mass vaccination, non più le persone, quelli che lavorano negli ospedali in vari ruoli naturalmente. Militari avevano cominciato. Militari, non più gli over 75, ma ormai è pronto proprio il piano, e come sappiamo il governo di Pechino può contare su, credo che non debba neanche chiederlo, sull'appoggio dei giganti della logistica legati a Alibaba e a Jack Ma, e quindi questa vaccinazione di massa appunto starebbe partendo. Poi sul vaccino cinese ancora non sappiamo tantissimo. Anche in Israele, per esempio, per ora si parla di una vaccinazione di massa utilizzando soprattutto quello di Pfizer e quello di Moderna. Questo vaccino cinese, che i cinesi sappiamo stanno già portando oltre che nel loro paese in Africa, su questo la comunità scientifica, insomma, lamenta una scarsa trasparenza dei dati.